Essere e benessere di Nicoletta Carbone. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buongiorno a voi da Nicoletta. Oggi non potevo che cominciare così la trasmissione perché ho intenzione di accompagnarvi in un viaggio nello spazio, perché ho il privilegio di avere qui in studio accanto a me, non proprio accanto ma insomma a distanza di qualche palmo, un vero astronauta, anzi dovrei dire per noi italiani lui è l'astronauta con la maiuscola. Buongiorno all'ingegner Paolo Nespoli, che emozione. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti voi. Tra l'altro lei, ingegnere, è l'astronauta italiano con il record di permanenza nello spazio. Lo so che a lei non piace parlare di record, ma ci dica un po' quanto è durata la sua missione. Sì, di record adesso poi in questi giorni, in tempi di Olimpiadi, questi supermen che rompono questi record impossibili. In effetti quello che è capitato a me è quello di essere stato in orbita per più lungo tempo tra gli italiani. Quindi oggi diciamo che detengo questo record, ma mi aspetto che in futuro si abbatterà. Era presto. La missione che ho fatto, l'ultima missione, una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, è durata 159 giorni, 5 mesi e mezzo più o meno. Avevo fatto una missione prima sullo shuttle di 15 giorni, quindi permanenza totale nello spazio 174 giorni per la cronaca. Wow, tra l'altro lei è un astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, si è addestrato al centro NASA di Houston e alla Città delle Stelle di Mosca per quasi 15 anni. No? Eh beh sì, sì, per una cosa e l'altra sì. Insomma direi che lei è tra qui e lo spazio. Non so neanche dove sono, a dire la verità. Adesso in questo momento è in diretta e lo così sottolineo agli amici di Essere Benessere dagli studi di Radio 24. Il nostro numero è a vostra disposizione, 800 24 00 24. Da poche settimane in libreria un libro molto interessante, dall'alto i problemi sembrano più piccoli, sottotitolo Lezioni di vita imparate dallo spazio. Beh sì, tornando dallo spazio mi sono trovato con questo tesoro, devo dire, di cose da raccontare. Mi sono accorto che parlando con la gente mi chiedevano un attimino: ma come fate, ma com'è possibile vivere in queste navicelle, in queste cose, questi spazi angusti, ristretti? Io, se devo essere sincero, ho trovato queste cose non completamente normali, ma abbastanza semplici. Alla fine basta seguire alcuni accorgimenti, insomma, lavorare un pochettino e si riescono a fare queste cose che in teoria o sulla carta sembrano impossibili, ma invece no. E questa cosa di guardare le cose da lassù, vederle da lontano e quindi distanziarsi un attimo, quindi vedere questi problemi che magari sono grossi e spezzettarli in piccoli problemi, affrontarli uno dopo l'altro, convivere con gli altri, essere forzato a stare in un posto chiuso, ristretto, confinato con 6 altri astronauti, non è che dice la sera vado fuori a bere una birra con gli amici. E devi andare un po' d'accordo con tutti. Beh, un po' tanto, insomma, certo. ma non solo, tra l'altro non solo con quelli che sono in orbita, devi andare d'accordo anche con quelli che sono al centro di controllo, perché tu parli costantemente col grande fratello che è a terra, ci sono 150 controllori di volo che ti guardano ogni mossa che fai, e quindi devi andare d'accordo un pochettino con tutti, ma non è difficile, devo dire, alla fine. Qui in studio con me c'è Alberto Pellai, anche lui ha letto il libro dell'ingegner Nespoli, è medico e psicoterapeuta, si occupa, come sapete, come ricercatore universitario di prevenzione in età evolutiva. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, e devo dire che è un'emozione particolare poter essere on air con un astronauta di fianco. Mamma mia, senti Alberto, il libro dell'ingegner Nespoli che ti ha colpito in modo particolare perché in un certo senso incrocia tutte le dimensioni sulle quali tu lavori, insomma, per te è un libro olistico. Sì, devo dire che è davvero un libro interessantissimo perché ti fa entrare chiaramente in un mondo che per molti di noi rimane un sogno, proprio quando ti chiedono da piccolo cosa vuoi fare da grande, tu dici l'astronauta, ma in realtà stai raccontando un sogno. Invece lui ti prende per mano, ti fa entrare passo dopo passo un po' nella sua storia di vita e un po' proprio nell'intenso lavoro di formazione e di preparazione di un astronauta, ti fa vedere un sacco di sfide, e secondo me la cosa magnifica è che tutto effettivamente, quando sei nello spazio in assenza di gravità, diventa una sfida. Ci sono quelle apparentemente microscopiche, una pagina divertentissima su cosa vuol dire farsi la doccia nello spazio, che impone una quantità di allenamento, di... Sì. Sì, no, corretto. Una cosa che succede in orbita, molto interessante, è che tu arrivi e ti trovi in questa situazione di assenza di gravità, che sembra così semplice, ma è una cosa veramente forte, perché questa forza di gravità ci condiziona nella vita di tutti i giorni in un modo pesantissimo, perché noi camminiamo, spostiamo, muoviamo, prendiamo le cose in mano, non ci rendiamo conto, ma analizziamo il peso e il centro di gravità di una cosa quando la prendiamo. Tu arrivi in orbita e tutto questo che fai sostanzialmente da bambino senza neanche renderti conto non serve più, anzi ti blocca nel fare le cose. Quindi nelle prime settimane quello che devi fare è sostanzialmente dimenticarti questa cosa, ripartire da zero, e questa secondo me è un'analisi molto interessante, perché ti porta a trovare delle soluzioni alle quali non avresti pensato. E quindi forse ritornare bambino un attimino nella vita di tutti i giorni, nella nostra vita di tutti i giorni sulla Terra, riguardare le cose, rianalizzarle, provarle a fare in un modo diverso, è una delle lezioni, tra virgolette, che secondo me è una delle cose più importanti. Quindi nel corso di questa trasmissione ci segniamo, facciamo un decalogo dell'ingegner Nespoli. La prima parola è ritornare bambino, Alberto. Sì, e direi che poi quello che ci dice lui, diamo tutto per scontato, improvvisamente ti trovi proprio in un'altra dimensione dove scopri che in realtà tutto è il risultato dell'apprendimento. E la cosa bella di questo libro è che si possono riapprendere un sacco di cose a seconda del contesto in cui ti trovi, e tutte quelle che ti sembrano missioni impossibili necessariamente le puoi, con l'impegno, con l'attenzione, con la focalizzazione sull'obiettivo, farle diventare missioni possibili. E a proposito di missione possibile, io direi di approfittare proprio della presenza dell'ingegner Nespoli, di un astronauta, per lanciare voi in missione. Quello che oggi ci attendiamo da voi è il racconto della vostra missione possibile per in questo periodo dell'anno. Che obiettivo speciale vi siete dati per non sprecare, che so, il tempo delle vostre vacanze, sia che partiate sia che restate in città? Avete fatto almeno un progetto, anche uno piccolo, piccolissimo, quasi microscopico, che volete portare a termine, approfittando magari del tempo dei ritmi più lunghi che ci sono in questo periodo dell'anno? E per voi, se siete già rientrati, magari volete raccontare quello che avete realizzato durante le vostre vacanze. 800 24 00 24. Oggi avete il privilegio di vedere i vostri progetti commentati da un astronauta, oltre naturalmente che da Alberto Pellai. Tra l'altro, se i vostri progetti hanno a che fare con la vostra salute fisica o psicologica, i nostri ospiti sapranno anche darvi, secondo me, dei consigli giusti per portarli a termine con successo. 800 24 00 24. Ma quando si decide di diventare un astronauta? Ma a me, io ho fatto il percorso standard, cioè quello di vedere questi astronauti da bambino che salterellavano sulla Luna, che emozione! Vederli fare le derapate con la Jeep lunare e pensare, voglio anch'io andare sulla Luna a fare queste derapate. E questa era l'idea così da bambino. Poi in effetti le cose vanno leggermente diversamente, ma a 26 anni mi sono trovato con una coscienza un pochettino più solida. Ho avuto un'esperienza intensa con l'esercito italiano, nel quale veramente mi sono dovuto confrontare con le mie capacità fisiche, ma anche mentali, psicologiche, cognitive, con tutte queste cose così, e lì ho appreso che in effetti con l'addestramento giusto, la forma mentis giusta, l'equipaggiamento giusto, con il team giusto, riesce a fare delle cose impossibili. Un atleta spaziale, nel senso che del pieno del termine, perché bisogna avere una preparazione fisica e psicologica assolutamente. Anche se secondo me il valore del libro è proprio questo, cioè tu pensi che l'astronauta è un supereroe e lui invece ti racconta che non c'è nessun supereroe dietro un astronauta. E concordo con il dottor Pellai, tutti pensano che gli astronauti siano supereroi, Superman, abbiano un fisico spaventoso, queste cose, ma in effetti non è vero, sono le persone normali. Che anzi, io addirittura lo scrivo nella prefazione qua, mi sento addirittura ancora un pochettino meno del normale, perché faccio fatica a fare. Andiamo allora a sentire proprio cosa scrive l'ingegner Nespoli nel suo libro. Chi è l'astronauta? Andiamo. Un astronauta deve unire buone capacità fisiche, psicologiche e mentali, e non necessariamente deve eccellere in una di queste. Personalmente ritengo di non potermi vantare di eccellere in una particolare disciplina. D'altra parte riconosco che ci sono ben poche cose che non riesco a compiere in modo soddisfacente. Anche se sono andato nello spazio più volte e mantengo alcuni primati di performance spaziali, non mi sento un supereroe. Non sono un Superman. Al contrario, sono un average man, un uomo ordinario. E forse questa è stata ed è la mia fortuna, poiché un astronauta deve essere un uomo con una buona media nelle varie abilità, anche se queste abilità sono molto diverse tra loro. Devi essere in grado di mettere in atto molti capacità, visto che devi saper pilotare un veicolo, lavorare in team, parlare e pensare in lingue diverse, gestire le priorità, saper pulire una stazione orbitale, fare riprese con la telecamera 3D, dormire senza reazioni di panico in un bozzolo che fluttua nel vuoto, parlare in pubblico, fare il paracadutista, usare Twitter. Eccolo qui, un astronauta raccontato come un uomo medio, ingegner Nespoli, in realtà sembra uno 007, quello con Sean Connery. No. Eh sì, bisogna saper fare tutte queste cose. Alberto, tu dimmi tu. Beh, chiaramente una di queste io, cose, quella dormire sì, nel bozzolo, pulire la cosa. Io quando e pulire mi è venuto in mente il lavello della mia cucina. Ecco, cioè, è un allenamento forte. Si impara tutto con attenzione, secondo me si può imparare tutto, voglio dire, è una delle prime cose che ti insegnano quando arrivi a fare quando sei selezionato come astronauta. Tu arrivi pensando, ah, io sono un ingegnere o un medico, so fare benissimo un medico, e la prima cosa che ti fanno fare è ti fanno fare qualcosa di completamente diverso. Per esempio, a me da ingegnere mi hanno fatto fare un corso per essere lo pseudo medico di bordo. E non so, dopo 20 minuti di addestramento su un manichino mi sono trovato la mattina dopo alle 7:30 vestito da chirurgo in sala operatoria col paziente davanti e mi hanno detto adesso intuba questo paziente, c'hai 3 minuti prima che cominci a morire tra virgolette, e il giorno dopo ci hanno portato in camera mortuaria, mi hanno dato un cadavere, dico, questo è il tuo cadavere e cominciamo a fare le operazioni, no? Tracheotomia, tutte queste cose così. Dice, ragazzi, scusate, io sono un ingegnere, pa. Però insomma alla fine quando come dicevo prima prendi questi problemi grossi e li spezzetti in parti piccole, riesci veramente a fare delle cose che ritieni impossibile. E questa è l'indicazione che possiamo, no, segnare sul nostro blocchetto degli appunti. Di fronte ad un problema, spezzettarlo in problemi più piccoli per affrontarli. Intanto diamo la linea ai nostri ascoltatori che oggi hanno un'ottima occasione, confrontarsi con un astronauta che li aiuterà sicuramente a vedere i problemi da un altro punto di vista. Andrea dalla provincia di Varese ci chiama all'800 24 00 24. Andrea, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, ci racconti. Niente, allora io queste mie vacanze le sto trascorrendo un po' tra l'ospedale e casa mia, perché sto seguendo mia mamma, che sto accompagnando mia mamma in questo momento di malattia, e intanto devo scrivere la tesi, quindi ho un po' di cose per la testa, però sto cercando di trovare le energie e le risorse. Come fare? Qua io arrivo a casa al pomeriggio e sono stanchissimo, però devo fare questa cosa. È difficile. Chi risponde? Ingegner Nespoli, due dimensioni, la vita privata e sì, l'attenzione. Ecco, attenzione, perché io non sono né uno psicologo, ma ci aiuta né un medico, poi Alberto. Né cose così, posso dire delle cose quasi di tutti i giorni, ma sicuramente quello di Andrea, e Andrea buongiorno, è un momento di vita complesso, perché da un lato gestire una situazione familiare complessa come quella che potrebbe essere una madre che non sta benissimo da quello che capisco, quindi ospedale, situazione anche affettiva molto grossa, porta a dei problemi innanzitutto di tempo ma anche personale. Io, a me tra l'altro è successo che mia madre è mancata, è morta mentre ero in orbita. E questo sicuramente è stato un momento molto forte. E Andrea si trova anche a dover scrivere la tesi, che è un altro momento di concentrazione pesante. E queste sono cose che Alla fine però, se uno ci pensa, succedono nella vita spesso e volentieri. Cioè, l'ideale sarebbe che potessimo affrontare un problema alla volta, che potessimo concentrarsi e dedicare le nostre attenzioni, ma la vita non è così. E quello che succede è che bisogna dividere le attenzioni. Si può fare, bisogna forse fare in modo di non puntare troppo in alto, perché un problema serio è quando si vuole eccellere, fare le cose migliori in ognuno di questi campi, ma quando ce ne sono di più tutti assieme è chiaro che le risorse sono limitate. Quindi dividere le risorse con attenzione forse è un modo per passare. È una buona strategia. In questi casi il meglio, come si dice, è nemico del bene, come c'è una formula, Alberto. Ma direi ad Andrea magari di fare proprio questi passaggi. Quando torna a casa dall'ospedale, non buttarsi subito nel compito di lavoro sulla tesi, ma darsi una zona di decantazione. Ideale potrebbe essere proprio 30 minuti di attività fisica, magari ascoltando musica. Il secondo passaggio, che credo per lui sia molto complesso, è che stare sulla sua tesi quando è così travolto dalle emozioni che sperimenta, soprattutto emozioni di impotenza, magari vicina alla mamma malata, può complicare tutto. Io userei la focalizzazione, cioè direi dedicati alla tua tesi per un tempo ben definito e molto breve, cioè 90 minuti al massimo durante il tuo pomeriggio, proprio magari costruiti anche definiti col timer. Quando parte il tempo tu entri solo nella tesi, lasci tutto fuori e sai che alla fine dei 90 minuti mollerai per sempre questa cosa. Questo ti permette di sapere di focalizzarti, che starai dentro a quell'impegno per un tempo ben definito e poi ne potrai uscire, e a quel punto lascerai che tutta la vita ti accada e tu cercherai di gestirla per quello che è. Ingegnere Andrea era molto un ragazzo che si preparava alla tesi, quindi un ragazzo giovane. Nel suo libro lei dà anche consigli ai ragazzi che hanno dei sogni, suggerendo una specie di percorso fatto di tante domande, che è una sorta di autoallenamento, no? Per prepararsi a realizzare i propri sogni. Tra l'altro lei racconta di dedicare parte del suo tempo libero proprio agli incontri nelle scuole con gli studenti. Sì, io dedico il mio tempo. Cosa hanno di diverso da noi questi i ragazzi di oggi e che bisogni le presentano? Ma no, devo dire che il discorso per quanto mi riguarda è che occorre che ognuno di noi trovi all'interno di se stessi quello che si può chiamare la passione, una cosa che ti appassiona, qualunque essa sia. Fare l'astronauta, fare il pittore, fare il fotografo, fare il barbiere, fare il cuoco, fare una cosa, pulire le strade, voglio dire. Alla fine uno deve trovare all'interno di se stesso la cosa che ti appassiona e cercare di farla e farla bene, perché nell'ambito di qualsiasi cosa, anche la più semplice che possa sembrare, si riesce a sviluppare una professione, un riconoscimento degli altri, un modo per vivere, per campare. Per cui alla fine, se uno trova questa cosa, diventa la sua professione. Tante volte i ragazzi mi chiedono: ah, voglio fare l'astronauta, cosa devo fare? Quando vado a chiedere perché vuoi fare l'astronauta, nella maggior parte dei casi mi sento rispondere: è perché voglio diventare ricco e famoso. E allora lì rimango un attimo così, tanto per cominciare, perché gli astronauti non sono né ricchi né famosi di solito, ma perché questa è la motivazione sbagliata per fare una professione. Se uno trova una professione, trova una professione che gli piace, che lo rende felice, che lo rende contento, che lo sente, dove uno si sente espresso, finito, fatto. Lei sta conquistando letteralmente i nostri ascoltatori, che ci stanno scrivendo al 349-238-6666, moltissimi messaggi, tanta curiosità, un po' di così sorpresa per scoprire che un astronauta parla come un uomo normale, si rivolge spesso alle persone che nello spazio non vanno ma si trovano ogni giorno ad affrontare missioni possibili e impossibili. Grazie ai nostri ascoltatori che intervengono, un'accoglienza molto, molto calda, un po' da essere benessere. Michele, buongiorno da Foggia, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Michele, io sono qua con l'ingegner Nespoli. Parlare con voi. Grazie anche noi, ci racconti. Bene, innanzitutto saluto l'ingegner Nespoli, veramente va fatto. Buongiorno Michele. Un piacere. Michele, io sì. Voglio dire questo, passerò le mie giornate e queste ferie qui che verranno studiando sempre di più quello che ho messo in onda da 6 anni, cioè vale a dire sto studiando l'internet marketing, l'affiliate marketing che ho conosciuto per caso 6 anni fa ed è tutto in inglese. Da premettere che io l'inglese non ne sapevo assolutamente niente. Quindi per fare una cosa ho dovuto impararne un'altra, è un po' come il gioco delle scatole cinesi. E questo è un buon allenamento, Michele. Ci sta riuscendo bene? Sì, sento bene. Ok, Luigi, vuole aggiungere qualcosa? Pronto? No, Luigi, dobbiamo richiamarla perché si sente male. Intanto dalla regia lo richiameranno. La descrizione dell'astronauta somiglia al mio modo di vivere. Sono un ipovedente, sono fiera di me, ci scrive Bruna al 349-238-6666. Ingegner Nespoli, in un programma di salute è doveroso parlare di prevenzione, lo fa anche lei nel suo libro, no? Sottolinea, lancia un monito molto forte verso il bisogno di prevenzione da rivolgere soprattutto a chi sta crescendo, come no? Manca un po' questa voce nel... C'è stata un'analisi da parte degli americani dove hanno visto che le generazioni di oggi, i ragazzi di oggi, i bambini di oggi sono sostanzialmente sovrappeso. Questo è sicuramente un grosso problema. Questo porta poi all'instaurarsi tutta una serie di problemi tipo diabete, eccetera, eccetera, eccetera. E quando sono andati a vedere del perché questi sono sovrappeso, è saltato fuori che non si muovono più e mangiano scorrettamente. Quindi l'alimentazione, il movimento sono due cose di base a quale dovremmo stare un attimino attenti, quindi giocare meno col computer forse o vedere e la televisione e fare un pochino più di attività fisica, no? Sì, tanto è vero che nello spazio abbiamo fatto una cosa che si chiama Mission X, train like an astronaut, ovvero non andare in treno come un astronauta ma addestrati come un astronauta, perché insomma noi in orbita stiamo attenti a quello che mangiamo e facciamo 2 ore di esercizio al giorno. Quindi una missione anche questa possibile, doverosa e salutare. Sicuramente. Missione X. Adesso andiamo quindi a capire perché e come l'attività fisica viene raccontata, il bisogno, la necessità dell'attività fisica viene raccontata dall'ingegner Nespoli nel suo libro. Rimanendo in ambito sportivo e sposando appieno la massima latina mens sana in corpore sano, mi stupisco quando osservo in quali condizioni gli insegnanti di educazione fisica siano spesso costretti a lavorare, mentre lo stato delle palestre scolastiche molte volte è a dir poco penoso. L'attività fisica, invece, è assai importante, perché sviluppa l'intelligenza gestuale e motoria, il coordinamento muscolare, fattori fondamentali anche per tutti coloro che non andranno nello spazio e per superare un eccesso di isolamento, di individualismo. Le missioni spaziali sono grandi imprese collettive. Non esiste l'esploratore solitario che si avventura tra le galassie. La cooperazione è imprescindibile per raggiungere obiettivi comuni e superare eventuali momenti di crisi. La competizione tra squadre all'interno delle università e i campionati tra classi servono a forgiare uno spirito competitivo, ma anche collaborativo, all'interno di un team. Mens sana in corpore sano e quindi è un po' l'obiettivo della Mission X di cui lei parlava, ingegner Nespoli. Quindi sì, attività sì, motoria sì, e alimentazione sana, combinate insieme. Attenzione a quelli che sono i bisogni del nostro organismo e fare cose che fanno in modo di mantenere questa macchina, questo motore in funzione. Se non gli diamo l'energia sufficiente, necessaria per funzionare, non funziona. Se non lo facciamo funzionare, si arrugginisce. D'altronde in orbita le cose vengono esasperate al massimo, anche perché col fatto della mancanza di peso ci sono dei problemi molto importanti per quanto riguarda la muscolatura, che perde di tono, perde di capacità, e lo scheletro, che viene addirittura dissolto, si scioglie in orbita a una velocità 10 volte superiore di quello che è l'osteoporosi sulla Terra. Quasi scherzando, mi viene da scherzare, mi è venuta in mente questa cosa qualche settimana fa, è che oggi, dopo essere stato 6 mesi in orbita, il mio scheletro è 10 anni più vecchio di me. Come mai? Riesce a spiegarcelo sicuramente il dottor Filippo Ongaro, che è in linea con noi. Buongiorno, dottor Ongaro. Buongiorno Nicoletta, ciao Paolo. Buongiorno Filippo, è un piacere sentirti. Piacere mio, Paolo. Tante volte il dottor Ongaro, abbiamo detto, è stato il medico degli astronauti. Infatti lei ha lavorato come medico presso l'Agenzia Spaziale Europea e poi da lì è stato inviato nelle principali agenzie spaziali del mondo, no? Dalla NASA all'Agenzia Spaziale Russa. Beh, come diceva Paolo, una delle cose più belle del programma spaziale è proprio questa forma estrema e profonda di collaborazione, no? Che è iniziata addirittura in un'epoca quando le superpotenze erano in guerra fredda, e quindi è molto bello il fatto di fare un progetto collettivo difficile, complesso, complicato anche nella gestione delle tante persone che sono coinvolte, però farlo attraverso le nazioni, attraverso i confini, e quindi è un'attività molto stimolante sicuramente. Dottor Ongaro, dalle missioni spaziali la medicina ha imparato molto. L'ingegner Nespoli parlava della salute delle sue ossa, ma la ricerca medica nello spazio ha fornito molte informazioni anche per la medicina anti-aging, giusto? Ma io credo che giustamente Paolo ha usato un termine molto appropriato, quello che il volo spaziale esaspera un po' tutto, e quindi funge per chi fa ricerca in quell'ambito e anche per chi come noi si limitava semplicemente a fare il medico di queste persone, e funge da lente di ingrandimento, quindi tu vedi in un lasso di tempo piuttosto ristretto dei fenomeni che a terra vengono diluiti e si possono vedere soltanto in delle decadi, e questo è molto stimolante, sul piano della ricerca, in effetti sia nell'ambito cardiocircolatorio che neurologico che muscolo scheletrico, sono stati fatti molti studi utili per la salute di tutti noi a terra, e anche nell'ambito psicologico, ormonale, per quello che riguarda l'esposizione alle radiazioni, quindi il rischio tumorale, cioè è un ambiente in cui abbiamo pochi numeri, quindi diciamo la dimensione statistica risulta leggermente ridotta rispetto agli standard classici della ricerca biomedica, ma però abbiamo dal lato nostro il grande vantaggio di vedere dei fenomeni sotto una lente di ingrandimento enorme che ci permette di trarre delle informazioni che a terra sono difficili da raccogliere. Vorrei dare la linea a Luigi che ci sta aspettando, ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Buongiorno Luigi, benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Senta, io volevo capire dal dottor Nespoli un suo segreto per rilassarsi dopo tutte queste fatiche. Essendo una persona, come si definisce, comune, sì. Quindi anch'io sono una persona comune con tanti impegni, bambino, moglie, genitori, lavoro, e quindi nel staccare la spina vorrei sapere quale metodo lui utilizza per potersi rigenerare, visto che anche il tempo... anche vuoi tirare un po' per tutti, ecco. Grazie Luigi. Ma devo dire che io ho una fortuna che è quella di potermi addormentare quasi a comando in qualsiasi momento, in qualsiasi posto. Non disdegno se sono stanco e ho un quarto d'ora di tempo di mettermi su una sedia e di dormire. Secondo me una pennichella veloce risolve tante situazioni, anche di stress, anche di così. Dall'altro lato, se ho tempo e capacità, invece cerco di fare delle cose che mi piacciono. Per esempio in orbita, una delle cose che veramente mi rilassava e distendeva era quello di andare alla finestra e fare foto. Avrei voluto stare lì e guardare sotto, ma a me piaceva fare queste foto e la cosa mi rilassava, per cui direi che forse da un lato riposarsi e dall'altro trovare una cosa che ti rilassa, che può essere, non so, leggere un libro, vedere un film, perché sono attività ricaricanti. Esatto. Alberto. Ma in generale poi direi qual è analizzare bene qual è la fonte dello stress. Se lo stress è che tutto il giorno siamo immersi in un lavoro ad altissima concentrazione, quello che ci serve quando stacchiamo è usare il corpo per scaricare l'energia negativa che abbiamo accumulato. Se abbiamo un lavoro che è fisicamente invece molto stancante, nel momento in cui stacchiamo facciamo veramente navigare la mente non nello spazio, ma in attività che ci danno quel riequilibrio mente-corpo che abbiamo perso e che vogliamo riconquistare. Dottor Ongaro, l'ingegner Nespoli diceva una pennichella per in qualche modo il nutriente rigenera, ha una sorta di effetto quasi simile al cibo. Noi abbiamo parlato molto anche nel nostro programma di Mangia con me dell'importanza del sonno e dell'importanza di una corretta alimentazione. Sono due nutrienti, diciamo la verità. Assolutamente, sia perché il cibo ha un'azione importante anche nel cervello, come abbiamo detto varie volte, ma anche perché il cibo sbagliato può avere può compromettere le capacità di recupero dell'organismo. Quindi, voglio dire, al di là della tecnica scelta per gestire lo stress, e credo tra l'altro che su questo concetto molto semplice della Pennichella in realtà sono stati fatti vari studi che dimostrano l'efficacia di questo metodo per scaricare la tensione, così come l'attività fisica, anche la nutrizione corretta ha un ruolo importante nel permettersi di recuperare meglio la fatica. E soprattutto, Nicoletta, la cosa che mi sta sempre molto a cuore è: evitiamo questi enormi sbalzi di glicemia che sono poi delle grosse trappole, cioè quando ci sentiamo stanchi andare immediatamente alla ricerca di zuccheri che poi provocano una stanchezza maggiore. Dottor Roncaro, lei sarebbe felice, perché se potesse vedere la faccia dell'ingegner Nespoli. Era contento, Paolo. Era soddisfattissimo. Alla parola sbalzi, io sì, anche perché gli astronauti di sbalzetti ne fanno, si è qualcosa. Illuminato. Bene, ingegnere, ho colto questo... Beh, no, la navicella spaziale è un posto che ti obbliga in un certo senso a diventare un pochettino virtuoso. Non necessariamente gli astronauti sono virtuosi per natura, tant'è vero che rimango sempre un pochettino sconvolto quando vedo i miei colleghi americani che tranquillamente vanno a far colazione a McDonald's tutte le mattine, quando arrivano al lavoro con le 6 bottigliette di Coca-Cola, perché se non bevono una bevanda o non bevono 14 caffè di quelli belli americani lunghissimi, poi arrivano in orbita e rimangono un attimo così perché non ci sono più queste cose, quindi caffè a tutto spiano in orbita e si detossicano con questi forti mal di testa. Io di solito non bevo caffè, me ne avete fatto bere uno. Io qui prima di sono stata prima una diavola cosa, esatto, una esatto. Diavola tentatrice, non dico però se ha messo lo zucchero o no, perché il dottor Ne ha messo pochissimo zucchero, non volevo dirlo. E noi siamo tornati, abbiamo chiuso l'ingegner Nespoli qui nello studio di Radio 24 a Essere Benessere insieme ad Alberto Pellai. Il dottor Roncaro è restato con noi, quindi allenamento, nutrimento corretto, ma anche forse coccole. Ci sono le coccole psicologiche, per esempio fare una videoconferenza con la famiglia, gli amici, i tuoi fan o follower. Sono coccole che contano, più toniche e corroboranti di un buon whisky o di una torta fatta in casa. Anche gli astronauti russi, generalmente meno espressivi e all'apparenza più inossidabili di noi occidentali, o perlomeno più distaccati e freddi, avvertono molto il bisogno di una relazione, di un contatto. Anche loro fanno la videoconferenza familiare settimanale, sebbene le loro famiglie debbano recarsi al centro di controllo spaziale russo di Korolev, vicino a Mosca, invece di restare comodamente nel salotto di casa, come fanno le nostre. Questo era un altro insert dal libro di Paolo Nespoli, Dall'alto i problemi sembrano più piccoli. Questo brano che abbiamo appena ascoltato ci fa venire un po' di tenerezza, Alberto, no? Alla fine, sulla Terra e nello spazio, abbiamo tutti bisogno di quello, no? Di contatti, di affetti, di relazioni, di coccole. Di legami, di relazioni. Io, effettivamente lui è molto focalizzato e lo racconta bene nel libro su un sacco di compiti che ogni giorno entrano nella sua agenda di astronauta quando è nello spazio, ma poi alla fine dedica proprio questo tempo speciale, lo fa in modo molto speciale, a questa ora della sera in cui tu puoi entrare nel tuo spazio. Quello diventa uno spazio di relazioni, di contatti con i legami e con gli affetti. Tra l'altro il libro racconta anche questo passaggio molto delicato: lui ha saputo della morte della mamma mentre era nello spazio, e racconta però anche una cosa molto bella che tutti gli astronauti che erano in missione con lui hanno fatto in quel momento, un segno molto concreto che effettivamente magari glielo facciamo raccontare a lui, perché è un passaggio davvero emozionante. Cosa hanno fatto? Mi sto guardando un attimino così, sì. Sono successe tante cose. Alla fine ho sentito i miei familiari, mie sorelle, mio fratello, i miei vicini di casa, il sindaco del paese, il prete, sono tutti racchiusi attorno a mia madre. Alla fine, da dove vengo, a Verano a Brianza, è un paesino relativamente piccolo. Si sono racchiusi lì per proteggere questa famiglia e in un certo senso cercare di dare supporto a me, hanno fatto benissimo. Ma alla fine comunque ero isolato in questa navicella spaziale e quindi i miei colleghi hanno deciso di fare assieme un minuto di silenzio, tutti assieme, e abbiamo scoperto che proprio nel momento in cui c'era il funerale a Verano, la navicella sarebbe passata sopra l'Italia, e quindi in quel momento ci siamo messi tutti e sei nella cupola e abbiamo fatto questo minuto di silenzio. Tra l'altro i centri di controllo al mondo abbiamo comunicato questa cosa e hanno deciso di unirsi a noi, per cui tutti i centri si sono spenti per un minuto in tutto il mondo, i centri di controllo spaziale, per questa cosa, che è stata molto bella e molto forte. Sì, è molto toccante. Ma a proposito di contatti, di relazioni, dallo spazio alla Terra, ogni astronauta, mentre in volo, può chiedere, no, di essere messo in contatto anche con celebrità, personaggi famosi. Avete un po' questa carta, no? E il Papa, il Presidente degli Stati Uniti, che però mi sembra vengano programmate dalla NASA. Ma ci sono due incontri speciali che proprio lei ha voluto fare dallo spazio alla Terra, e di uno in particolare parliamo tra pochissimo. E per l'indizio andiamo a sentire. Quella notte di vent'anni fa non ci fu nemmeno una rapina. Era calda e vuota la città, perché in TV si andava sulla luna. È la notte che sei nata tu, che tuo padre fece nuvolari per vederti subito com'eri, più eccitato di quelli lassù. Quante lune fino a qui, quante lenzuola da mordere. Ce lo racconti lei, perché noi abbiamo proprio scelto in questo momento di ascoltare una canzone che ha 20 anni, firmata dai Pooh. Sì, in effetti agli astronauti viene concesso di fare di cercare di parlare con delle persone speciali, e tanti chiedono di parlare con degli scrittori, con dei poeti, con degli attori, insomma, e quando mi sono trovato in orbita e ho dovuto cercare di tirar fuori un paio di persone che volevo sentire, sono saltati fuori i Pooh, perché mi ricordano molto la mia infanzia da un lato, ma dall'altro l'Italia, insomma, queste canzoni mi sono nell'anima, sono nel sangue. Sentire queste canzoni mi fanno risentire giovane, e quindi sentirli è stato sicuramente un piacere. E quando hanno accettato di parlare con me in orbita, o di vederci addirittura in videoconferenza in orbita, è stato sicuramente un piacere grande, ma portato fuori dalla navicella. E abbiamo portato loro dentro, tra l'altro. Immagino che sia un'emozione grande sentirsi chiamare, no, dallo spazio. Scusi, c'è una telefonata per lei, una videochiamata per lei, ma ce lo facciamo raccontare da Red Canzian, a cui è capitata questa splendida occasione. Tra l'altro, Red, questo è un incontro tra amici, perché in linea abbiamo anche il tuo amico Filippo Ongaro. Ciao Red, buongiorno. Buongiorno Filippo, buongiorno Paolo, come stai? Red, questa era la sorpresa, mi hanno detto c'è una sorpresa, ma non ti diciamo, è un piacere sentirti. Ma guarda, allora noi ci siamo collegati la prima volta dagli Arcimboldi via veramente telefono con Paolo, che era nello spazio, e noi facevamo il concerto agli Arcimboldi. È stato emozionantissimo sentire la sua voce in diretta. Poi ci siamo collegati invece da quella base che hanno a Torino, proprio via video, per cui ci siamo visti ed è stato bellissimo anche lì. Poi ci siamo visti a Torre del Lago, che è venuto proprio al nostro... Era senza tutta. No, ma è stato bello, Red, quando siete venuti a bordo con me in videoconferenza, abbiamo parlato un pochettino, ma insomma, alla fine ero nella cupola, e quindi prendevo questa videocamera, la puntavo verso il basso, facevo vedere questa terra, e poi abbiamo fatto un giro assieme della Stazione Spaziale Internazionale, facendogli vedere tutte le cose, il bagno, dove dormiamo, i laboratori. Bellissimo, interessantissimo. È fantastico. Dottor Ongaro, e in quell'occasione io gli ho anche portato i saluti di Filippo Ongaro, che avevo visto qualche giorno prima, e sapeva che ci saremmo visti, sentiti con Paolo. Che onore, Nicoletta. Dottor Ongaro, che porta i miei saluti a Paolo Lespoli dello spazio. Sono incredulo. È fantastico. E lei è un po' l'anello, dottor Ongaro. No, ma io sono affascinato, perché appunto anche per me è stata un'esperienza incredibile lavorare con gli astronauti, e poi vedi quante cose si ricollegano a questo mondo indirettamente, perché è un mondo che affascina tutti in realtà, insomma, quindi è molto bello, insomma. Poi io ho avuto il piacere di conoscere Red, siamo anche conterranei, visto che abitiamo tutte e due a Treviso, e quindi eccoci qua. Eccoci qua, essere benessere. Allora, Alberto, in questa puntata dove abbiamo parlato di missioni impossibili che sembrano possibili, abbiamo avuto i consigli, una sorta di coaching del nostro ingegnere Nespoli, questi intrecci di amicizie che ritornano anche on air. Alberto, in conclusione, abbiamo scritto dei piccoli appunti per guardare le cose dall'alto, per vederle realizzabili, forse più piccole, per affrontarle con maggiore serenità. Direi che il titolo del libro, Dall'alto i problemi sembrano più piccoli, secondo me è un magnifico consiglio per quest'estate, soprattutto se dobbiamo affrontare situazioni complesse, cioè saper guardare un po' alla distanza. Ciò che ci sembra così enorme ci permette un distanziamento che automaticamente ci rende più competenti nell'affrontare le cose complesse. Due frasi dal libro di Nespoli che secondo me valgono per tutti: anche i sogni, quelli più impossibili, si possono realizzare se ci credi veramente. E poi questa capacità di spezzettare in piccole cose le cose grandi, e ogni piccola cosa così può trovare la sua soluzione. Perfetto, com'è questo Alberto Pellai? Rimane senza parole. Dico, chi avrà scritto queste cose? Red, vuoi lasciarci con un tuo messaggio, un augurio per quest'estate, per questi momenti? Abbiamo pochi secondi, ma ne vorrei uno tuo e uno di Filippo. Una cosa velocissima. Innanzitutto grazie a Alberto Pellai, che ha fatto delle fotografie meravigliose del mio libro a parole quando l'abbiamo presentato, ed è un grande. Un abbraccio a Paolo Nespoli, un abbraccio al mio amico da Treviso che ci cura, ci fa star bene fisicamente. Io in questo momento, per avvicinarmi a vedere le cose un po' dall'alto, sono al rifugio Kerza, 2300 metri di altezza, sopra Campolongo. Ci sono arrivato in bicicletta. Bravo. E quindi fate un'estate serena. Ok, c'è la crisi, c'è la sfiga, ma ridiamoci anche un po' sopra. Pedaliamo. Grazie a Red Canzian. Un bacio a te, un bacio a Red Canzian, un abbraccio al dottor Ongaro. Mille complimenti al nostro ingegner Nespoli, ringraziandolo per essere stato con noi. Grazie. Nicoletta, grazie a voi, grazie al dottor Pellai, grazie a tutti gli ascoltatori che ci seguono. E arrivederci in orbita. Arrivederci in orbita domani, grazie.